Odiatore di libri di Alessandra Tedesco. Non superare le dosi consigliate, l'ha scritto Costanza Rizzacasa d'Orsogna, pubblicato da Guanda. È un romanzo che racconta la storia di una donna, Matilde. Lei si definisce proprio così: sono Matilde, ho 44 anni e peso 130 kg. Il romanzo è sostanzialmente la storia della sua vita e della sua guerra con il peso, della sua anche malattia, perché non parliamo semplicemente di una persona che è ingrassata di qualche chilo, ma di un disturbo alimentare profondo. Lo possiamo definire bulimia, possiamo definirlo binge, come si dice all'americana, cioè quelle abbuffate incontrollate. Questa è la storia appunto che racconta Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Devo dire che soprattutto la prima metà del romanzo è scritto proprio in modo bulimico, perché Costanza ci racconta tanti episodi della vita di questo personaggio. Si va sul presente, si va sul passato, di quando lei era bambina, il rapporto col cibo, con la madre, con il padre, con il fratello, con tutte le cose che succedono nella sua vita. Costanza, l'hai scritto veramente in una forma letteraria bulimica? Non so se si possa dire così dal punto di vista proprio tecnico, però la sensazione che ho avuto io è quello che tu abbia voluto raccontare veramente tante tante cose insieme, in modo da portare il lettore in quell'atmosfera che vive il personaggio. Sì, era una scelta narrativa, ho voluto fare proprio così e penso di averlo ottenuto. Poi per altri versi il romanzo ha una certa capacità di sintesi, che è quella che un po' viene dalla poesia. Io sono sempre stata molto attratta dalla parola esatta, dal ritmo, però sì, volevo riportare, ecco, Matilde soffre in tutta la sua vita di 4 disturbi alimentari, appunto come dicevi tu, e volevo riportare questa bulimia nella struttura del romanzo. L'ho fatto per esempio attraverso la ripetizione delle frasi, questa ripetizione continua della stessa frase cambiando soltanto una parte della frase. Ecco, quello è uno degli escamotage. Volevo un lettore sulle sabbie mobili, volevo proprio avviluppare questo lettore e farlo sprofondare nella realtà angosciante di Matilde. E effettivamente io come lettrice mi sono sentita proprio risucchiata dal suo mondo. Tu inizi a parlare di Matilde bambina a 8 anni e c'è questa scena in cui la madre, insieme diciamo alla cena, le poggia accanto al piatto delle pillole di lassativo e tu scrivi: mamma me lo dà ogni sera, se arrivo a tavola che è già apparecchiato lo trovo a destra del piatto accanto al bicchiere, all'inizio sono solo 2 compresse, presto diventeranno un blister. Il disturbo quindi di Matilde deriva da un disturbo della madre con il cibo. Sì, la madre di Matilde è bulimica e appartiene peraltro insomma a una delle più grandi generazioni farmaceutiche della storia, che è stata quella del dopoguerra, degli anni 60, degli anni 70, dove si prendevano farmaci come fossero acqua fresca e si davano anche ai bambini senza pensare alle conseguenze. Quindi la madre, che è già chiaramente mentalmente disturbata, quando Matilde comincia a ingrassare pensa di risolvere le cose come fa lei, ecco, che vomita in continuazione e prende lassativi, e quindi in strada, diciamo, Matilde verso questa strada della dipendenza da lassativi, che Matilde poi si porterà dietro per tutta la vita, fino a pensare che se smette di prendere lassativi tradirà sua madre. Ecco, il personaggio della madre è veramente è bellissimo e nello stesso tempo terribile, perché è una madre appunto che in strada la figlia all'uso spasmodico dei lassativi, è una madre che quando Matilde è piccola la chiama cretina, e Matilde pensa che cretina sia un vezzeggiativo, sia quasi un nome affettuoso che le dà la madre, per poi un giorno scoprire appunto che in realtà è un'offesa. Eppure questo rapporto fra Matilde e la madre è un rapporto intensissimo. Sì, nel libro non c'è rabbia, questo era proprio molto importante. Sì, Matilde lo dice che poi si è pacificata anche con sua madre da adulta, però diciamo l'impressione che ne ha il lettore, soprattutto nel rapporto fra Matilde bambina e la madre, è comunque di turbamento quantomeno. Sì, certo, io volevo appunto rappresentare quello che era anche il vissuto delle donne degli anni 60 e degli anni 70. E ci sono cose che Matilde vede, che circoscrive, che riconduce a una cattiveria della madre. Chiaramente la bambina Matilde piccolina non si può spiegare tante cose, anche il fratellino, insomma, loro passano la vita, le giornate, come sappiamo il primo modello in famiglia, a vedere questa madre che vomita. Questa madre che ha accessi provoca liti per il suo egocentrismo, per avere attenzioni. Però poi Matilde, ecco, nel suo percorso Matilde capirà anche da dove veniva la madre, la frustrazione della madre, cose che quando Matilde era bambina chiaramente non le erano chiare. Una madre che aveva dovuto mollare la carriera che voleva fare perché non c'erano soldi, le voleva diventare una scrittrice. Sì, infatti si capisce che c'è una grande frustrazione nel personaggio della madre, e Matilde forse lo comprende poi solo con l'età. Matilde lo comprende con l'età, e comprende con l'età tutta quella severità spasmodica della madre, che a 3 anni dopo cena la tiene alzata fino alle 10 di sera per studiare l'Iliade, le insegna l'Iliade in greco. Matilde sa l'Eneide, tutta l'Eneide in latino e tutto quello che significa, e lei si vanta di questa cosa. Però chiaramente tutte queste ansie di perfezionismo su questa bambina che poi vengono fuori in, per esempio, quando Matilde è in America, a New York. Poi un giorno finisce, le fanno una foto, questo fotografo di strada molto famoso, Bill Cunningham, è morto pochi anni fa, le fa una foto e lei è tutta contenta, chiama la mamma: mamma, mamma, sono finta sul New York Times. E la mamma risponde severissima: tu sul New York Times ci devi andare con un articolo, non con una foto. Ecco, questa madre che non è mai soddisfatta, perché Matilde va negli Stati Uniti per diventare giornalista, frequenta la Columbia University, e lì succedono anche delle cose terribili, non solo negli Stati Uniti ma poi anche in Italia, perché Matilde per esempio viene ricoverata a volte in ospedale proprio a causa del suo disturbo. Lei passa dai 49 kg ai 130, non così nell'immediato, però insomma questo è il suo range di peso, chiamiamolo così. E ci sono delle scene anche molto dure, molto dolorose, molto aspre, anche impressionanti per il lettore, nella vita di Matilde. Insomma, perché finisce in ospedale Matilde? Matilde passerà in ospedale una buona parte della sua vita, anche poi quando verso i 30 anni, per motivi psicosomatici, sviluppa questo disturbo del vomito incoercibile, che quindi qualsiasi cosa mangi comincia a vomitare senza che lei lo voglia, ma proprio tutto viene buttato fuori. Ed è poi lo scoprirà attraverso un percorso psicoterapeutico, che appunto lei sta in questo modo buttando fuori le emozioni che lei non aveva mai voluto confrontare, mai voluto affrontare. E a un certo punto lei dice appunto: le emozioni se devono venire fuori vengono fuori, non le puoi trattenere, quindi è meglio affrontarle. Ecco, ci sarà tutti questi anni in cui appunto Matilde passerà più tempo nei pronto soccorso che fuori, e sarà molto dura. Scoprirà, lei dice, posso scrivere la Lonely Planet dei pronto soccorso romani, ma poi anche sono una costante, insomma il finire in ospedale sono una costante della sua vita, a parte del fatto che Matilde soprattutto quello che lei divora sono i lassativi, e quindi certe volte sbaglia le dosi. Poi quando va in America trova che sia tutto più facile, perché i lassativi si trovano al supermercato, tutto prende un tratto... una quantità di medicine assurda praticamente. Sì, e poi non si sa fermare, perché ecco, l'immagine è sempre quella della madre che ne prendeva sempre di più. E quindi Matilde, quando era per esempio adolescente in Italia, doveva affrontare le farmaciste, no? Che magari la fermavano: mamma, che stai facendo? No, ma sei sicura che sia per tua madre? No, lei mente, la menzogna è una costante del libro, lei mente sempre. Poi però vai in America e trova che tutti i farmaci si vendono al supermercato, costano poco, in confezioni enormi, per esempio da 100 pillole, e lei certe volte proprio non le conta più neanche, butta giù 100 pillole, poi chiaramente sviene e finisce in ospedale. Allora tutti pensano che abbia chissà che cosa, e lei mente di nuovo perché lei non riesce a confessare quello che in realtà fa, quello che è una costante della sua vita. colpevole del suo disturbo e della sua malattia, naturalmente costruisce, come si dice, un castello di bugie. Poi naturalmente nella vita di Matilde c'è anche un uomo sbagliato, un amore sbagliato, un uomo che la mortifica da tutti i punti di vista. Ecco, quando poi si legge la biografia alla fine del tuo romanzo, la tua biografia, si dice che ti sei laureata in scrittura creativa alla Columbia University di New York, appunto, che scrivi naturalmente sul Corriere della Sera, sei giornalista sulla lettura, che tieni una rubrica sul settimanale 7 Anybody, ogni corpo vale. E allora la domanda per il lettore è proprio basic, insomma, quanto questa storia è ispirata a fatti che tu realmente conosci? Ho prestato a Matilde il mio vissuto di disturbi alimentari, che io ho 47 anni, sono stata anoressica, bulimica, poi dopo i 40 anni sono diventata una binge eater e per tutta la mia vita ho preso lassativi, che questa dipendenza da lassativi è un altro disturbo che si chiama purging, il purgarsi continuo, no, attraverso il vomito e i lassativi. Quindi io ho prestato tutto questo bagaglio a Matilde, che chiaramente è molto grande. Ho prestato anche il rapporto con mia madre, con la bulimia di mia madre, però non tutto. Chiaramente questo è un romanzo, io non sono Matilde soprattutto quando Matilde cresce. Questo perché io, da giornalista, col mio fervore analitico, io sono, prima ancora di scrivere romanzi, scrivo saggi, ecco, ho potuto attraverso il mio lavoro informarmi e anche per certi versi salvarmi. Io non volevo dare lo stesso vantaggio a Matilde. Ecco, Matilde sì, vuole diventare una scrittrice, eccetera, però diciamocelo, la maggior parte delle persone non riesce a salvarsi attraverso un lavoro che può essere il giornalismo, non scrive un manifesto e improvvisamente diventa un attivista che ha una rubrica sul Corriere e scrive di questi temi, insomma, in, certo, modo analitico, ovviamente, eccetera. Non volevo dare questo vantaggio a Matilde, quindi questo romanzo per certi versi è più vero del vero. Ecco, impressionante quando tu dici che questo romanzo è più vero del vero, perché veramente, lo dico naturalmente agli ascoltatori, ci sono delle scene che colpiscono per la loro drammaticità e per proprio anche la violenza che può derivare da una situazione, da un disturbo e da una malattia del genere. Grazie allora a Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Grazie Costanza, anche per la sincerità, per la schiettezza con cui ci hai raccontato quanto c'è di te e quanto invece Matilde è un personaggio di finzione. Vi ricordo il titolo del romanzo, Non superare le dosi consigliate, pubblicato da Guanda. E anche per questo appuntamento breve con il Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24. E trovate tutte le puntate, sia queste brevi che quelle lunghe monotematiche del fine settimana, in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. We'll be right back.